Sì, a me interessava, o penso che possa interessare a tutti, avere qualche parere delle persone che hanno assistito, penso per la prima volta, alla riunione del nostro gruppo. Vorrei qualche contributo anche, così, proprio spassionato, magari in voice, da parte siamo stati fino a 42, 40 persone, vabbè. Quindi, E non si sa se sono delle persone o delle AGI camuffate, quindi non per si può. carità, per carità, per carità. No, davvero, c'è qualcuno che vuole molto serenamente, tranquillamente dire qualcosa? Il sito ovviamente è singhins.it. È ancora in fase di sviluppo, abbiamo messo. Io volevo. Chi ha aperto il microfono? Aiuto, non si sente. E volevo anche poi magari andare avanti se volete restare. Parlare appunto dell'organizzazione del sito, però appunto magari sarebbe carino avere qualche parere di chi non l'aveva visto prima. Tipo se si capisce la main page, l'introduzione, che è la frase che pratica è dietro noi e alle nostre spalle.